Sono le ore 21:31 di mercoledì 15 luglio 2025. Dopo un bel po' di tempo torno a registrare qualcosa e mi scuso se si sono diradate un po' queste registrazioni, ma cerco di tenere fede un po' alla promessa iniziale di Pendo Deliri, che è quella di parlare quando uno se la sente, fondamentalmente. Cioè, quello che veramente non vorrei mai è dover riempire un palinsesto, perché a quello ci pensano già in tanti. E qui devo soprattutto intanto rispondere a un messaggio che è arrivato da Sara, che saluto e ringrazio, che però un po' si lamenta, perché era una delle persone, bontà sua, che ascoltava le primissime serie di Pendolire, quelle del 2003, 2004, 2005, eccetera, dove effettivamente, cioè, c'è da riconoscerlo, le storie erano molto molto più personali, no? Sì, c'erano dei richiami alla politica del tempo, il berlusconismo per esempio era onnipresente, era una metafora del becerume e forse anche una causa del suo salto di scala, però sì, si parlava soprattutto di quello che succedeva fuori dal finestrino della Xara, della Focus, durante il mio tragitto pendolare, e raccontavo questo mondo, e queste storie evidentemente piacevano perché mi arrivavano tanti messaggi, e naturalmente ho anche agevolato dal fatto che ce n'erano davvero pochissimi di podcast in italiano all'epoca. Però insomma c'era molto della mia vicenda personale e c'erano anche questi deliri veri e propri di una persona che perdeva un po' di lucidità, ovviamente, perché si trovava in una condizione estrema. Tutto sommato io con quel podcast approfittavo della possibilità tecnologica praticamente nuova di internet per fare che cosa? Per piantare come dei fiori nel deserto, perché la mia vita era un deserto, era una vita desertificata dal sacrificio pendolaristico, anche se poi naturalmente dentro di me ero remunerato dal fatto che proprio quel lavoro così lontano da casa era quello che mi aveva permesso di mettere su famiglia. Non avevo naturalmente calcolato tutti gli effetti collaterali di una vita di questo tipo, soprattutto per esempio trascurare la famiglia, perché passi molto tempo lontano da casa e questa lontananza si sente, specialmente quando hai una figlia piccola. Cioè, quelli sono momenti che probabilmente non torneranno più. Ecco, la differenza con oggi, e questa è un po' la critica che mi fa Sara, devo dire anche una critica giustificata, è che adesso invece racconto una vita che non è più desertificata. Nella mia vita ho messo tante cose e quindi parlo delle mie passioni, anche delle mie occupazioni attuali, che non sono solo la vita del travet, no? C'è anche il fatto di riuscire a occuparsi di arte contemporanea, di essere nel dibattito sul futuro dei musei, lo spazio pubblico, tutte le mie ossessioni che sapete e che sembrano anche molto autoreferenziali, no? Sembra quasi di appartenere a un dibattito tra privilegiati. E questo, devo dire, nella critica io, anche se non è detto esplicitamente, lo sento e mi, come dire, mi dichiaro colpevole, però temo che non potrebbe essere diversamente. Per esempio oggi avrei voluto in un podcast parlare del fatto che il Comune di Roma, per la sua ultima campagna sui musei in comune, campagna soprattutto sulla MIC Card, che permette di entrare ai residenti e agli studenti che studiano qui a Roma in tutti i musei gratuitamente, pagando soltanto la card, che costa solo 5 euro l'anno, quindi un prezzo simbolico. Ecco, mi piace molto il coraggio di questa campagna che racconta questi musei come se fossero la nostra nuova casa, o quantomeno un'altra casa, un pezzo di casa disseminato nella città. Si possono vivere così i musei: quando entri non devi pagare un biglietto. Questo è importante dirlo e sottolinearlo, non è una bizzarria romana. Ci sono anche musei importanti, viene in mente lo Smithsonian a Washington, che sono gratuiti, no? L'idea di un museo gratuito, completamente finanziato dai contribuenti, dallo Stato, non lo so come volete dire, però fuori dal circuito legato al fatto di dover staccare un biglietto, cambia tutto, cambia il modo in cui vivi il museo. E ti assicuro, scusate, vi assicuro, perché magari c'è un solo ascoltatore, ok? Vi assicuro che entrare in un museo senza l'obbligo di dover utilizzare la scarsità indotta dal fatto di aver pagato un biglietto, quindi poter davvero camminare senza necessariamente soffermarsi o per forza su tutte le opere perché vanno consumate, o su poche perché si ritiene che siano le uniche che meritano. Cioè, quando davvero tu cammini in modo casuale, fai una deriva situazionista in un museo, come magari un museo non conosciutissimo, come il Billotti per esempio, a Villa Borghese, l'Arancera, oppure musei anche più frequentati come il Museo di Roma in Trastevere o la trascuratissima Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Via Crispi. Ecco, questi sono degli spazi, ne ho citati solo pochi, in realtà la rete è molto molto più grande. Sono spazi dove puoi davvero passeggiare e staccare da tutte le regole che normano il nostro rapporto con lo spazio normalmente, no? Cioè quasi sempre un rapporto funzionale: sei in una strada e quindi magari c'è qualcuno che ti vuole fare entrare in un negozio, qualcuno che pensa che tu abbia bisogno di un frozen yogurt da 6 euro, a Roma è abbastanza normale questo, eccetera eccetera eccetera, no? Cioè è sempre un rapporto di forza a determinare il tuo rapporto con lo spazio pubblico. E invece questa idea di vivere il museo come una seconda casa cambia le regole del gioco, quindi l'ho trovata molto coraggiosa, soprattutto detta in modo così esplicito in un momento come questo, dove esiste una forma di consumo di suolo che è trasversale, che è legato appunto alla destinazione d'uso commerciale del suolo. Lo trovo particolarmente interessante anche come mossa successiva all'apertura delle aule studio per gli studenti, che sono diventate dei luoghi di animazione degli spazi culturali, prima altrimenti in larga misura deserti. E sappiamo bene che nelle sale studio i ragazzi hanno titolo non solo a studiare, ma anche a fare tante altre cose insieme, che non obbediscono alle regole né del lavoro, né dell'università, né le regole delle case dove vivono, dove magari possono anche vivere situazioni di disagio, magari per via del divario generazionale, un disagio che, di cui ogni tanto si registrano solo le punte dell'iceberg, no? Come appunto i quattro ragazzi che hanno fatto scena muta all'orale, che tanto hanno fatto arrabbiare il ministro Valditara. Ecco, si può decidere se considerare questi come dei gesti insensati o comunque da punire, oppure in realtà come dei segnali nel rumore che dovrebbe essere il decoro del comportamento dei nostri giovani, decoro semplicemente perché non siamo in grado di comprendere nessun altro comportamento. Ecco, in quelle sale studio succedono cose molto interessanti. Ragazzi che creano progetti insieme, quando li vedi con questi laptop che parlano, discutono, guardano mappe, guardano siti, si fanno venire idee, non necessariamente start-up, non necessariamente idee imprenditoriali, ma magari ecosistemi, altri modi di generare valore o anche volontariato, perché no? Ecco, l'idea di creare, di ampliare sempre di più i luoghi dove le giovani generazioni possono essere liberi dai vincoli del circuito scuola, famiglia, lavoro, secondo me è un modo molto interessante di pensare alla città. Non so quanto consapevole, non so quanto sistemico, però molto interessante. E infine chiudo con una buona notizia: mi sto allontanando dal Maxi, stavo assistendo a una presentazione nell'ambito degli eventi Estate al Maxi, e ho incontrato Stefano Gobbi, a cui ho fatto i complimenti perché la Videogallery è tornata ad avere una programmazione in loop, è tornata quindi a essere uno spazio pubblico aperto per tutta la durata della vita del museo durante il giorno. Non ci sono più queste proiezioni con orario che non avevano molto senso. Chissà, forse sono tanti piccoli segnali, una specie di pista cifrata, vedremo poi alla fine che cosa apparirà.